certo, briciola, se non ci andiamo. Brigido, Brigido. E poi Natali, buongiorno. Buongiorno anche a lei. Sono andato a Tarezzo, adesso mangio, mi preparo e torno a finire. Questa è la vita che ci ha creato. Non lo sai che il lavoro nobilita l'uomo e lo rende simile alla bestia? Ma io sono diventato una bestia addirittura, proprio una bestia sono diventato in questo lavoro. Vabbè, domani mattina quando smonti sei libero. Cazzo, libero, via. Promo, sono libero il pomeriggio. E poi domani mattina è sì. Io entro, io già risetti. Alle 7, alle 7. Cazzo, 12 ore. E dopo c'è il viaggio. Vabbè, c'è vicino. Almeno quello. Ancora non è entrato nessuno, solo tu, Manuè. Sì, già ci sono le cose, lascia perdere. Mi piace sentire il cuore, ma la gente. Sì. Avanti. Buonasera. Buonasera anche a lei. Sì, Natali, sono andato a farvi gli auguri, dato, speriamo che ci sia qualcuno, così faccio gli auguri e niente, dai. Cosa fai stasera? In casa, cosa vuoi fare? Magno e da modo mi si Goku. Cosa devi fare? C'è Emanuele pure, che ci sta preparando per andare a lavorare. Raffaele anche stanotte il tuo braccio. E vabbè dai, purtroppo lavoro e lavoro. Sì, infatti. Purtroppo qualcuno deve farlo. Lo so. È triste lavorare nelle feste, quello senza ombra di dubbio. E qui se sì, già ne so qualcosa io. Io, le domeniche, vabbè, a noi oggi per dire il 31 ci faceva finire prima di lavorare, quando c'era il vecchio, no, quando adesso ultimamente ci facevano finire, ci facevano andare a casa prima, verso le 5 e mezza, alle 6, chiudevamo tutto, facevamo la bicchierata tutti insieme, ci davano i panettoni, lo spumante e poi andavamo via. E quando era Felix veniva un po' inazzata a fare queste cose, così è. Allora, con i lupi era tutta un'altra cosa. Me lo posso immaginare. Io dove via via, dove schiavi. L'umanità era diversa, dai. Erano molto, cazzo, hanno fatto un pranzo una volta così. In scioltezza, ha compiuto 10 anni il negozio di apertura. E quando ha compiuto 10 anni hanno fatto la torta, hanno fatto una festa col pasto caldo, ce l'hanno portato il catering, ci ha portato tutto caldo, tutto lì, il negozio, e abbiamo fatto le tavolate, abbiamo tutti mangiato lì, il negozio, ecco. No, hanno fatto delle cose sempre in grande. Sì, gente come si deve, voilà. E soprattutto erano riconoscenti con chi lavorava. Guido, la riconoscenza non sapeva neanche cosa voleva dire, la riconoscenza, Guidastro, già ci siamo compresi, no? Sì, no, che se qui gli ultimi che c'erano ti chiedevano per cortesia la roba, già non è che per cortesia se c'è un attimo di tempo può controllare, capito? Ti parlavano così, non è che dicevano vai subito immediatamente per... come faceva là. Io non ne apputia niente, se non avevi tempo, lui fa due buchi. No, loro avevano un metodo diverso di porsi con le persone che lavoravano lì, con i collaboratori. Avevano un modo molto diverso. E vabbè, quello era fascista, cosa che se ne arrivava. Fascistone, proprio che aveva forse nazista più fascista. E nazista era chi sono fascista. Cazzo. E dopo per favore non te ne chiedevano. Vai e fai il tuo emu. Cazzo, a Felix. Bumbu. E tuttora è così, pure a casa sua è così. E beh, quello è sempre stato così. E dall'ora di pranzo mi fate sulla televisione, dici no, a quest'ora si deve mangiare e parlare tra di noi, il televisore deve stare spento all'ora di pranzo. Lui era abituato così e non tollerava altre cose, capito? E vabbè, tempi passati sono attari, c'è solo brutti ricordi. E di lui sì, lo credo che c'è brutti ricordi. Cazzo di altro. Con chi sono vede, non si potevamo funare. Mettiti da rompere i piedi e muoviti. Per rompere i piedi pure a punirti. Sì. Fa pure no. Era manco il mio veloce, l'ho preso. Quindi capito. Comunque, ti dico una cosa, ci guadagnava molto di più la nuova leva che c'era adesso con la gente che lavorava che lui, perché loro erano sempre disponibili con questi di adesso, c'era sempre disponibilità, con lui erano un po', andavano dai sindacati, questo e quell'altro, perché non gli dava trasferimenti, non gli dava questo, non gli dava l'altro, quindi andavano dai sindacati e gli facevano avere roba. E scusa, se non si poteva ragionare con Eddo, manco i sindacati potevano ragionare. Oh, senti il titolo sindacalista alla riunione, gli ha detto questa è casa mia, comando a voce alta, a grida. Questa è casa mia, qua comando io, voi non ci dovete mettere lingua. Così l'ha detto. Ehi. Se l'avevo dividere. Il sindacalista ha detto, non ne ho fatto di riunioni con tanti, ma come lui. Oh! Era la mia collega quando... che ha praticamente organizzato tutto per farci sindacato, no? Gli ha detto, lei è l'artefice di tutto. Dava mia ragione. Lei è l'artefice di tutto! Ma tanto Manuela, quella commessa lì, praticamente ha fatto svegliare un medicetto. Hanno cominciato a pagarci e a darci i permessi, perché prima non ce le davano, se richiedeva un permesso diceva perché cosa ti serve, loro non ne deve fregare nulla perché cosa ti serve, ti spendono 3 permessi al mese e te li devono dare, puoi anche andare a farti un giro con gli amici e cose, però ti spendono le dare. Anche quello è vero. Cazzo. E allora tutti i permessi non ci aveva dato, ci aveva fatto fare, vabbè, gli aveva fatto un attanto e ci avevano gonfiato un po' la busta paga. Ah, la sorte. Sì, se i sindacati non la rampanava assai, Edu. Ma adesso sono tutti venduti, tu pensa che ce n'era uno, sindacalista che veniva dalla CGL senza fare nomi, praticamente veniva a fare le riunioni da noi e poi spifferava tutto a lui quello che dicevamo noi, capito? E gli davano le bustarelle, poi l'abbiamo scoperto, prima ci guardavamo far male in faccia a noi pensando che era uno che era l'altro che andava a gacettare, no? E invece era sindacalista. Perché si era venduto. E poi l'hanno preso a lavorare là, nella zona grande, no? Dove, nella zona industriale. E poi, vabbè, a fare il tutto, usare tutto il muraetto. Poi sono partiti, hanno fatto l'entrata dei Lioni, esci da non dico di cosa. Sì, di Rumazzone. Adesso stanno andando avanti, i nuovi hanno fatto tutto nuovo, hanno messo tutti i banconi nuovi, tutto cambiato nell'ultimo, tutto completamente cambiato, risplende adesso, prima lui non voleva sapere cambiare nulla. E chi non vuole, quindi me. Loro hanno fatto, hanno cambiato il banco della pesca. pizzeria, il banco della macelleria, hanno fatto un'isola per i gelati, mega galattica, di quelle enormi. Se vuoi che il negozio renda deve essere ogni tanto rinnovato. E tu invece dei pilli non ne vuoi tabì, non hai compreso, vuoi guadagnare, boh. Sì, ci ho guadagnato. E si era partito di notte. E infatti. Già guadagnato, però da voi vicino come è andata la storia. Vabbè. Lì perché hanno zuppicato loro. Infatti. Però adesso l'hanno ripreso in mano e sembra che stia andando bene. Ma loro i vecchi? No, i nuovi. Ah, ci hanno dato la mano, Hanno idee più giovani, hanno rinnovato tutto l'impianto microfonico. È venuto, lo sai chi ha fatto l'impianto? Mario Medu, te lo ricordo. Sì, sì. E ci ha fatto tutto un impianto microfonico, quello che prende, chiamano il personale dalla recepzione, no? Cassa centrale. E tutto l'impianto, le casse, tutto qua. C'era Mario Medu e anche, come si chiamava? Via Baldetta. E Archimede. Ah. Sono venuti tutti e due. Allora lui adesso sta lavorando praticamente come guadagnato, ma fanno anche gli impianti di sorveglianza, tipo telecamere, queste cose qui. Abbiamo messo le telecamere. E tutte delle camere in Chivi. Va che hanno capito. Vabbè. Poi riguardando le telecamere a volte si scoprono cose che... E anche chi lavora nella centrale operativa è ripreso lì, capito? Da noi, per dire, c'era questa donna che rubava sempre, però non siamo mai riusciti a prenderlo, riusciva sempre a farla a Frank. E un giorno è venuta e sono andata a riguardare le telecamere... Ho beccato un collega che rumava. Ecco. Si prendeva la birra, se riusciva fuori, se la beveva, non pensando che la telecamera c'era anche fuori, capito? Poi le buttava dentro questo contenitore delle batterie che era abbandonato perché non l'avevano tolto, ci buttava le bottiglie dentro, l'ha licenziato. E a lui dice furto. Sai quel contenitore come l'avevo riempito di bottiglie? Sicuramente era lì che si... era alcolizzato, già ne so, beveva un bel... Ci prendeva i campani mentre lavorava, io... Adesso no, entrava lì e beveva i campani. E vuol dire abbiamo qualche problemino con l'alcol? Più di un problema. Io ho raccontato perché sono stato sempre onesto, non mi è toccato lo spizzo, se non me le davano i rappresentanti qualche regalino me l'hanno fatto e poi ha sgridato anche i rappresentanti, lui ha detto che la roba la compravano loro, non la compravamo lui, quindi i regali dovevano dare a loro, così gli ha detto al rappresentante. Ehi, figura di cantità. Ehi, perché ha visto dandomi una cosa a me, capito? Regalandomi una cosa. Perché magari incentivavo la merce, nel senso che per dire facevo andare più avanti un certo tipo di acqua invece che un'altra e ci facevano i regali, capito? Come si fa? Ma tanto era una cosa da mettere in vendita, quindi a me cosa mi interessava? Niente. Un pallone me l'aveva portato per mio figlio. Ma te ne immagini? L'ha sgridato. Chi l'ha sgridato? E con tutto, perché tu magari eri gentile, con questo ti faceva i regali, però lui, cazzo, siccome la merce la compro io, diceva, nella sua testa, allora i regali deve fare a me, non al mio collaboratore. E lui pensava così, Felix. Ma con la presentazione ci siamo messi d'accordo, adesso quando devo fare i regali ci troviamo in un punto e te lo do. Così almeno lui non vede nulla e lo facciamo anche contento. E quello è poco ma sicuro. E così abbiamo fatto sempre, mi ha regalato servizi della lavasta, questo o quell'altro, e hanno regalato poche di cose. Le tazzine da caffè, le tazzine da cappuccino. E purtroppo c'era gelosia su tutto. E il punto del rifornitore. C'era, allora hanno chiesto al signor Gavì, l'altro socio, ho detto, signor Gavì, ma se i punti voi li fate, no, e se li richiedo io, me li faccio io, beh, posso prendere, ma detto, sì sì, già, non c'è problema. Poi un giorno è venuto il signor Gavì, ha detto, già, non li prendo di più i punti, perché praticamente lui è andato a pagare, e lui gli ha detto, ma io i punti li devo dare a questo ragazzo, perché lui me li chiede sempre, sì, se lo sa fatto la pari giù, e gli ha detto praticamente di non darmi più i punti. Poi si lo capiva, non ti aveva detto già scusa, ma l'altra persona non vuole. E vabbè, non c'è problema, non c'è problema. Poi mi ha chiamato, tu perché ti ha autorizzato a te a prendere i punti? Ha detto, guarda, io ho parlato con il signor Gabriele, mi ha detto di prendere, cioè Gabriele, sì sì, glielo ho detto io. E vabbè, ma i punti servono a me. Capito? Ogni cosa si attaccava a quello più grande. Ehi, ci sono quei rendi, la miserabile. C'è una buccia, quando c'avevo la casa al mare, no? Avevo la casa al mare, avevo preso l'affitto per l'estate. E c'era questo pacco di carbone che si era crepato, non si poteva riaggiustare nulla perché si era proprio spaccato quasi in due. E la lì stavo facendo a posto e c'era lui guardando, l'ho detto, quel carbone, ho detto, se me lo dai me lo porto al mare, non mi ha manco risposto. Poi dopo, cosa ti posso dire, dopo due anni, roba così, mi ha detto, prendi quel carbone e buttalo via. Un bastardo, quando andavo a te c'era lampato. Perché io l'arrostivo, capito che, quindi magari anche se me lo dava di meno, qualche cosa di meno, glielo prendevo, ma non è che lo volevo gratis, no. Poi spetta sempre a lui essere capito. Sì, gratis, cazzo, ne ricevi in un pezzo di cori, gratis, dirò la zia, ma così. E più ne ho più sono attaccati i soldi, lui, magari dai, meglio niente. No, io ti dico che da quando sono entrati dentro sono rinato. Lì, uno, i turni cambiati, mi faceva fare l'orario continuato, non mi faceva andare la sera per due ore. Praticamente mi hanno cambiato completamente tutto. O dalle 8, o dalle 7 alle 2, o dalle 8 alle 3 facendo, e poi me ne andavo. Ma chi tu cazzo buffonendi sì? Alle 5 e mezza, alle 7 e mezza la sera, per due ore mi faceva sprecare la benzina per scendere a Porto Torres, scherzo. Ma tu pure si vuoi ricomputare come te che tu sindacalista? E poi cosa non hai voluto fare isso? Che bastardo che... C'era una che parlava male della zia che era capocommessa. L'ha detto tutto, la zia si è cazzata da niente a quella rimbuti. Perché la zia era pestifera, non guardava in faccia a nessuno, c'era la nipote, non guardava in faccia a nessuno, spifferava tutto a lui. Tutti i consigli pure a Eddo, non hai compreso? Tutte spie ne voleva. Cazzo, a me da c'era poco bastardo. Avanti! Buonasera Gianni, buonasera Mattalino, non so se mi ascoltate, sono entrato solamente per fare gli auguri. Mario Porto Torres, Gianni, tanti auguri Mattalino, siamo mi sente fammi da Ponte, sei Gianni. Ciao Mario, un vero piacere ascoltarti, dai, tanti auguri anche a te di buon anno. Che l'anno nuovo ti dia quello che desideri, dai. Avanti Natalino. Con chi stai parlando? Non l'ho sentito. Mario di Porto Torres. Ah, cappa. Perché c'è lo squelci, deve essere che non è arrivato, capito? Qua arriva Santiago. E vabbè, ma io c'avevo lo squelci inserito. Io non me l'ha sbloccato. Allora, calcoliamo le 7. Ehi, ok, ciao. Come si esprime? Che riprendo Gianni, l'ho sentito, eh. Comunque fagli gli auguri da parte mia, Natalia. tantissimi auguri di buon anno anche a te. Niente, rimango qui in Code Victor un attimo, poi spengo tutto, qui c'ho da fare. Grazie ancora Gianni, a te di nuovo, buona serata e tanti auguri ancora anche a quelli che stanno ascoltando. Ciao, a te il microfono. Ehi, ciao Mario, dai, buon Coris, ti ringrazio perché sei entrato a farci gli auguri, è stato un vero piacere, dai. Avanti Natale, sei sentito, ti fa gli auguri Mario. Ehi, cappa, non l'ho sentito perché qua non arriva. Cappa, cappa. Beh Mario, non ti ascolta, dai, non ti ascolta, lui ti sente, ma tu non lo senti. Vabbè, capita. Vabbè, avanti Natale, ripeto, che Mario è all'ascolto, ha detto che ci ascolta, però che no, non fa. Mica. Purtroppo, ma cosa ti ascolta? Sarà come stai aprendo il cane. Natale, si è seduto questa paia. Si è messo a paiare perché stava toccando la porta a mia moglie. Accendergli la luce, lei non poteva accendersela prima di uscire. Queste donne che ti schiavizzano più. Sì, quello è poco ma sicuro. Magari mi cammina fatto va. Cazzo di cazzo tranquillo, cazzo, non mi aveva rompito di cazzo di nessuno, non di ero. Cazzo, mi ha dato una femmina diversa, invece un dice sempre minestrone, sempre minestrone, più si rompe i cazzoli. Non manco male male. E vedi che non mangia pure un minestrone, Natale, si deve accontentare. Ah, mi devo accontentare pure, ma è il rompimento di balle che non sopporto. Ma non è male, mi fa il cazzo brutto, brutto, brutto, basta con questo brutto. Chi è avanti? Chi è che sta parlando? No, lo sento un basso. Chi è avanti? È qualcuno che sta arrivato da mettere la porta o non sto uscendo di microfono? Io l'ho sentito basso basso lo stesso. Mi stavo preoccupando pure io. Anche io sono piccolo e negro. Quindi lo vedi. Ciao, auguri di buon anno. So che lo passi al lavoro. Ciao già, ben sentito. Auguri anche a voi. Mi sto preparando. Sei un qua per Fiesto. E dove sei? A Tocureale. All'impianto della plastica lì. No, questa dove c'è la musina. C'è la reclamazione. Ehi, proprio di fronte. E vabbè, così ti godi tutto lo spettacolo dei fuchi, dai. Ma per carità, per carità. Io a Natale sono preoccupato per Natale, già in questi giorni stavano già buttando queste bombe di Maradona, grazie agli azzocco, si vuole ammaggiare a tutte le ore, a tutte le ore, anche la notte alle due di notte, buttano queste, non sono pettate, sono bombe. Ehi, lo so, cazzo, si ravini parati un di guio, cazzo. Io che ho le armi non sparo mai. Questi, cazzo, si mettono a sparare le bombe, Se le devono sparare dove dico io, perché sono roba pericolosa, cazzo. Ancora non hai compreso. Natalia, ma ascolti adesso? Sì, signore, adesso lo ascolto. Ero più di mezz'ora che ero preoccupato, ga. Voglio fare da con Mario, di Bocciodorra che era. Sai chi è? Quello che era a scuola, con lui, che era abusato vicino a me. Già lo so, ma io c'avevo lo squelch inserito, no? E non lo sentivo, ho aperto anche lo squelch, anche senza squelch non lo sentivo, capito? Bello, ma mi sentivo a basso, e c'avevo il coso del microfono che non era inserito bene, forse era bagnissimo. Salutami anche Tore, ma io non lo sento. Tore, non ci sei. Sì che ti sento, Mario, a voglia se ti sento io, catta, a voglia, ben sentito. Ciao, ciao, ben sentito adesso, hai calato il QRM, dai, ma ti sento proprio piano, piano, piano, eh. Saluti, tanti auguri, Tore, sono qui in ascolto, ma tra poco spengo. Sono entrato solo per salutarvi, eh. State bene, buon proseguimento di queste ore, a te Gianni. KK, dai. No, io ti ascolto bene, Santiago 8 ti ascolto, la radio è 4, Santiago è 8, niente, Tore avanti, buonasera, dai, sei entrato anche tu a farci gli auguri con me. Insomma, già te li faccio gli auguri. No, che sono entrato, ero preoccupato per il microfono, ero preoccupato. Vabbè, Mario, già ci ascoltiamo alle prossime, se mi ascolti bene, da rivivi, a gli dai chissà cosa, pompelli, sì, già sta pompando, lui ha voglia, pompando, tanto va lì, chissà radio, 30 watt mi sta dando, anda bene. Già, gli auguroni te li do sia a te che a Natalino, poi altro non lo so. Auguroni anche a te, Mario. Guarda che ti vedo su canale 5, che mi stai disturbando la televisione, che sto guardando Maria De Filippi. E te, chissà se lo fanno televisione a Capaterra, va. Certo, non lo so che sia a te, faccio a Capaterra. Ah, di la verità, chiede, tutti che si bisogna, che bisogna, siamo armati, che va in chivi, e non sei parenne poco di che si bettardi, ci si avviene del caduto, che non guasseo, eh? Pensa tu che il Romero, il camano, ci siamo montati alle 7, pensa tu che gira a mettere le palline. E poi sta in una cerca di una pari bulletti, sta in una cerca i genitori. Ma dalla Edi a Vedanici. Otto, ma com'è che sono bettardi, no? Che sparano le bombe, quelli di Maradona che esplodono a casa sembrano bombe. Oppure quelli che hanno tutti i candelotti in fila, sono mi pare un 15 candelotti e sparano a raffica tipo i fuochi d'artificio. Là. Chi si costano 50 euro un gusani? Ma chi si sembra incomparati e vanno in onda? Fanno fuochi d'artificio, ma chi si ha fatto chi su in ogni sopra? Il palazzo vicino, sarà dove c'è il negozio. Ha copiato chi so che era madura, era fatto un buco, ma un buco è. E uno ha detto, ma che cosa in oggi? Ma te deve pigliare a para, bico, ruggimento a rimattoni, una busciacca a rabiboni. Ha detto, e deve acconsare in due dito, deve essere fatto, ha detto. Anche se no, in oggi, avevamo un po' bisogno di rivedere, di carabinieri bisogno di rivedere. Una volta che l'hanno in bosco. Avrà peso di quelle palle di Maradona, quelli lì sono micidiali, sono i più pericolosi. Anche qua esplodono, sembrano bombe, si vibra tutto quando esplodono, vibra tutto qua. E mando si grida, gli ugenici no, non chissà cosa, ma ha fatto un buco enorme, ha fatto, chi sono del negozio, ha pigliato, ha chiamato, i carabinieri ha chiamato, e sono giunti immediatamente, e se l'hanno buttato da sopra, hanno detto che l'hanno buttato una multa, ma beh, da Zahada però, ah voglio vedere come te la paga che noi travaglieni. A vicino io. Cosa vado? 30 anni, 33 anni. Fanno cose, almeno fallo dove non puoi fare in campagna, di dove non dai problemi a nessuno. Se vai di comunque a campagna mi rilamba e non compri il tuo caso. Ma se lo fai in città fa casino, distrugge le cose. Io mi ricordo che una volta, io adesso non so che cosa erano, perché non è che me ne intendo più di tanto, dove facevo servizio ambulanza c'erano i tombini, no? Mi hanno acceso, uno l'hanno messo nel tombino, ha fatto saltare il tombino, ha scricciato tutta l'acqua, cioè tutti spruzzati, la bagaglia loro. Hanno veramente fatto bagaglia. Cazzo, se vedi un buco che ha fatto i noghi, due, che sono due uomini che sono farati, perché hanno sentito il botto che abitano sopra. So farà dice, ma e non che racconta, ma ti bidi ba a bicu e ci mette mattoni e a conceduto. Due dì deve darsi a conso. Ah, hai fatto così. E ora per guardare i bagagli, glielo addebitano. Il carabinieri stesso glielo addebita. Aiuto che se non rubasi, per rubasi ne va. Fatto l'hai già pigliato la denuncia dai carabinieri, perché non si possono usare quegli affari lì, di sequestro. E gli hanno fatto vedere dove li ha presi. E Guido non voleva dirlo, dice guardi, se lei non lo dice si fa un mesetto di carcere, si fa, ha dovuto dire per forza, ed erano i cinesi, irani. Cinesi? Erano i cinesi, sono andati, non so quanto l'hanno in buccia di contravvenzione, avevano già arrestato un negozio un buon mese. E questo è più brutto sicuramente. Come hanno fatto i cinesi che ce l'avevano in affitto, dove avevamo prima il negozio, ne avevamo affittato il locale. Sono andati con il camion, la finanza le ha sequestrato tutte le luci di Natale perché non era la norma. Ci avevano solo la presa a due e le erano tutte sequestrate, le luci di Natale, un bel di Roma le hanno sequestrate. A cartone. Sì, ma questi deve essere che sono andati, perché i carabinieri hanno chiamato la finanza e sono andati loro, gliel'hanno chiuso per un mese e non so quanto non hanno avuto dentro. L'ha detto che non ha acciappato un magazzino. Vabbè, perché non fanno sotto un banco che li danno, capito? Magari i negozi non si vedono e glielo chiedono se li danno sotto un banco. Ma la dici li capiteggia anche i finanziari, anche i carabinieri che lo fa per camuffare. Se butti tutto. E infatti, certo. Ma poi ancora ci sei? Sì che ci sono, mi sto giocando col nano UNA. Occhio no, non arrenarlo. E cos'è questo dado UNA? Un gioco, Ma poi spiegaglielo. Altro che gioco, È una specie di computerino per analizzare le antenne. Ah, e adesso ne sai qualcosa in più, Ehi, analizzare le antenne se funzionano, se non funzionano, e se ci sono stazionari e tutto il resto. Così è, Natali. E c'è la carta di Smith, un sacco di cose praticamente. L'analizzatore di spettro, c'è. Via, è così. È quello che ho visto io in internet. È un apparecchietto, se o no, un po' grandetto. Così è. E non è tanto grande, no? Però già funziona. Ho imparato a calibrarlo e tutto, capito? Mi ho ordinato altri due cavi, ho provato il carico fittizio che mi ha fatto ed è una bomba. Oh, no, già funziona bene. Sto fatto qualcosa e già funziona bene. E gli ho attaccato il carico fittizio a vedere cosa diceva. E già ha detto la verità. Adesso così con quel carico fittizio che ho costruito mi tarò bene il rosmetro, perché almeno antenna non ce n'è e deve far per forza segnare zero, capito, le stazionarie. Se segna in più vuol dire vuole tarato. Sì, è così. Ehi, non ti segna 00, proprio non ti segna. A cosa deve rimanere? A 1 deve rimanere, perché a 00 non scende. Ehi, lo so, mi segna nel nano VNA 1,001. E così deve segnare, infatti. Deve segnare così, deve segnare. Io ho già provato quel coso lì quando me l'hanno prestato. Faceva la stessa cosa anche a me. Preciso, lo devi tarare. ogni volta che lo devi calibrare, no? Con gli accessori che ti danno. Una volta che hai calibrato, le misure le fa giuste. Ho messo anche, per calibrarlo, ho messo anche il capo che ho usato per il coso, come si chiama, per il carico fittizio, perché ti misura anche il capo, capito? Infatti quando metto la carta di Smith mi misura più in alto, proprio perché c'è la calibrazione col cavo, col cavetto. Sì, a me, io gli ho messo del coso di 30, gli ho messo, e oscillava un pochettino di più, oscillava. Infatti, quello che me l'ha prestato è venuto, me l'ha calibrato e segnava giusto poi, perché ti dà anche il coso per il cavo. Io già via busso 30, già via busso, ed era giusto. Sì, infatti, chi c'è già davvero? Sarà. Capito, non puoi sbagliare quando ti dà il carico fittizio. Adesso me l'ho messo dentro una scatoletta di legno, ecco qua, lui è duro e sano. Dove? Come mai non sta guardando il microfono? Cosa c'ho aperto? Lo spinotto non era incassato bene, infatti c'avevo lento, mi sono gabbizzato da bui, mi sono gabbizzato. E c'era lo spinotto che non era scritto bene, infatti gli ho avvitato la ghiera, gli ho avvitato e ce l'ho portato dentro tutto quanto, non era messo bene. Vabbè, io a volte lo metto senza avvitato, funziona lo stesso, è strano. Che affari che si usa? Non era messo sino a fondo, ecco cosa era. Era lento, giocava per quello. Io sto usando il 706 e mi sta dando 30 watt. Bene. Vabbè. E comunque, io l'ho detto, o è qualcuno che sta facendo un appoggiato o qualcuno che non sta facendo di microfono. Quello lì ci doveva far capire. Sì, infatti io dicevo che mi comprendia da voi, ha già ducato lo spinotto, ha detto tu sì, perché questo me l'avevo rifatto a nuovo il capo, perché non usciva il capo che c'era, allora l'ho rifatto a nuovo. Ha già tagliato un capo di coso, Ethernet, l'ha già rifatto a nuovo. Vabbè, io già ne ho dei cavi di riserva, ne ho un bel, perché i microfoni io li ho già laggiù dei morire. Ma io tu paghi lo spinotto a coso mi va, mi hai capito? Quello spinotto da che usi per internet, c'è quello spinotto lì, qua c'è una macchinetta a burro, ce ne ho tanti di quei spinotti a buia, se riesci a farmelo. Vabbè, fantasmi. Ui, ciao Tony. Ciao Gianni, ciao Tore, e ciao, perché ho troppo volume, troppo vicino, e ciao Mattarino. Ciao Tony, auguroni. Cosa ti volevo dire? Adesso domani c'è il nuovo anno e quindi il premio sia meglio di chi ci stai andendi. Davvero, sì, dovrebbe essere migliore, dai. Tanto iniziale, domani iniziano già i soldi nuovi della pensione. Però domani no, forse fratelli. No, Tore, stai sbagliando. Scommettiamo quello che vuoi, io domani a mezzanotte, cioè stavolta a mezzanotte c'è già i soldi nel mio conto corrente, non è la prima volta. Capita domenica, capodanno, visto che vuoi, ce l'ho sempre a voi. Sì, ma lo sai che difficile ti dà dopo di 3 giorni, ti dà. Ci passano 1, 2 e 3 te li dà. Dimmi cosa ti giochi tu con me, scommettiamo. Io prego mezzanotte, oppure rimane in frequenza, pure andiamo insieme e te lo faccio vedere, ritiro quello che voglio. Perché c'è il conto corrente, Ettore? Io da me, ogni primo dell'anno quest'anno me li hanno dati sempre 3 giorni dopo. Anzi, passato ne ho 22 me ne da, no, ne ho 21 che me ne hanno dato dopo i 4 lì, perché c'era un altro giorno di festa in più c'era. Dottore, ma c'è il controcorrente in banca? Bravo, per forza, io mi sono scappato alla banca, era così come dici tu. Sono andato alle poste, invece ogni giorno uno, perfetto. Forse sabato, domenica, fica o fica, io c'ho sempre il giorno uno. Io, a me non è la banca, ma è bensì è l'Inps che gli dà il 3. Ecco cosa è. L'Inps ti dice devi pagare il 3, e il 3 pagano loro. No, niente, sto dicendo, non è la prima volta che capita di festa, di domenica. Li ho sempre preso il giorno 1. Scommettiamo, c'è proprio giù che la parata, io. Marco, ma se mi fidi, c'è la carta come c'ho io, così è, Tony. L'Inps l'ha già dato, ci sono già i cose delle pensioni, capito? Quindi se lui c'ha l'affare delle poste, il bancomat delle poste, lo ritira la pensione, capito? Io non posso andare dentro le poste a ritirare i soldi, quello no, però fuori posso ritirare 600 euro alla volta, oggi, domani, dopodomani, capito? Io ho il conto corrente postale, punto. Col conto corrente postale sì che funziona. Poi le pensioni l'Inps le ha già messe, capito? Quindi le poste, i soldi ce li hanno già. Esatto, e le mettono nelle date in cui devo mettere, capito? Io ho già il mio conto corrente, quindi è proprio io mezzanotte, un minuto di gioia. Anche Luciano, un amico mio, aveva il conto corrente delle poste, io conto corrente non ne ho. C'ho la carta del bancomat, però a me non me ne danno perché non ho il conto corrente. Me li danno il giorno 3. Lo so che funziona così, io perché ve ne sono uscito. La mia parolera me l'ha detto, passatene con le poste che sei meglio. E infatti sono passato le poste, grazie a Dio. Non mi è mai mancato una, cadere in banca, manca sempre 20-30 euro, ma andate mazziti via. E beh Gianni, che mi combini? Niente. Oggi mi sto rilassando, 5 minuti mi sono fuori il catto, perché stavo cantando, poi mi sono messo, c'era gente a casa, mi sono andati via e quindi mi sono messo in radio. Canti. Anche io ho fatto il pisolino e poi invece cade la pagliata, sono uscito, ho toccato la padina di Natale perché è già buio, c'ho tutto quelle azzurre elettrico, bello, tanto non ho cielo fatto nessuno. E stanotte dove vai tu? Ma c'avevi ospiti a casa in questi giorni di festa? C'hai ospiti? Tu se avevi ospiti? Ah, io sì. Io c'ho sempre la donna, non c'è problema. Io la compagnia ce l'ho sempre, dai. Bene, venita. E stanotte cosa fai? Gente, adesso tu divirti. E salute, se vuoi andare a casa di amici. Ma in Piazza Italia non fa nessuno. Chi è che sa qualche cosa? Cosa? In Piazza Italia non farà niente oggi. E ci sono i cantanti. Non lo sai che c'è Renga e poi c'è l'altro che non me lo ricordo. Due cantanti ci sono. Beh, chi l'altro è? Che si sono associati. Ma con la gente lì ingolfata, ha pagato la donna che vuole, però lo suo marte ti bagna un casino. Ma dai, che io ho tanta roba buona, stanotte mi diverto. Poi tanti bacini, baciuti e scorreggiuti. E a parte quello, Tony, tu freddo, vive con la iazza che fare, chi più? È vero, è dottore, e poi Maldugna, cosa fai? Butti la roba nuova, mica che c'hai dalla finestra e poi almeno il nuovo anno roba nuova. Dottore sparito. E io, chi è che fa come fa tutti? La nuvola a lui. Cosa? Poi la nuvola passa appena, vienici con freddo. È forte, lo so, aspetta. Così va bene. Così va benissimo. Ho detto se vuoi la nuvola. La nuvola? E cos'è? Ma chi? No, chi vuoi faceva la nuvola? Tu, se vuoi Fantuzzi. Che sfavolchetto. No, io nel senso che Fantuzzi buttava la roba dalla finestra, capito? Io soldi ci guadagneranno con la di Fantuzzi, ma va voi. Ma non mi fa capire che sei tu Fantuzzi, se ce l'hanno con la pure da me, no, te li racconto. Gianni, tu pure hai fondito io e non fu. Non mi ne fatto. Ma è andata, cosa vuoi che ti dica? Natali! Fuia! Ma ritirato c'è Natali! Se ti ho risposto, ho detto uia! Cosa ti duri, dillo a me, cosa ti duri? Tutti rossi! Vabbè, non fai rugare in cibi! Oh già! Sì! Parenti tuoi c'erano, sì! Cosa? I parenti tuoi c'erano! Quando? Natale! Sì, sì! Sì, sì! C'erano i miei figli, eccetera! Poi la sua gente! Ecco, saluto le mie con amici. E io? Sì, saluto e facciamo il cenone. Mi sembra un po' giù di morale, si è demoralizzato. Dalla voce ti sento strano. No, sono stanco, Tony. Cucinando, facendo, sono un po' stanco. Vediamo che devo dato mangiare, cosa niente, hai fatto il mondo, ma è proprio non siamo stanchi, no? A Natale io ho fatto il pranzo, il cenone di Natale, ho fatto il pranzo, il cenone, c'avevo gente, e il giorno dopo. Immagina. Io sono stanco di mangiare, guarda, infatti ho promesso che dal giorno 1 sono a dieta, così va via la faccia. No, io sto mangiando poco, solo che se, anche se mangi poco questi cenoni qua, mangi sempre un bel, perché gusti una cosa, gusti l'altra, anche se ne mangi poco, mangi sempre buono. Lei purtroppo non è poco di buona, io prendo anche le seppie con i fusilli, le abbiamo fatto, i gamberoni, quelli proprio carabinieri, ci mangiano anni. Cuccio porcetto e anche lì l'ho fatto col suo, insomma, è troppa roba, passi pochi, e lo sai cos'è, che poi ti avanza, eccetera, di mani di lavatesi roba, io guarda non ne potevo più, dopo che abbiamo finito tutto quanto, a Natale mi è avanzato il porcetto, mi sono avanzati tutti quanti gli antipasti, ma sono stato 3 giorni in mania di sempre lavatesi roba a fare una pazzia. Ma non si butta niente già, assolutamente, è troppo cara la roba, assolutamente, no. Da bene meda. Da Talino. E io via, sono andato bene quest'anno, a 13,90 me l'hanno dato. Io molto meno, me l'hanno regalato. No, vabbè, comunque era 17 e passa, 17,90, 18, era così. Io l'ho pagato a 13,90, ma l'ho preso una settimana prima, la verità, l'ho messo in freezer e poi l'ho fatto. No, ma io l'ho pagato a 11,50 io, e poi a Natale la Conad è passato a 11,15, perché adesso è brutto, non so. No, il porcetto invece è un po' un pastore, avevo io, è parata galato. I gamberoni invece l'ho comprati, meglio, veramente i carabinieri, da lì ci sono andato però. Ma lo sai che ho mangiato una cosa buonissima, che via è quella traversa, la via del monte, una traversa. C'è praticamente un negozietto che vende roba surgelata, ha preso queste palline, le palline di coso, di pesce spada. Ma non sai quanto sono buone tu lì. Mi sembrano polpettine piccole, ma così buone. No, io sono andato da Alice proprio, che è tutta roba sfuggita per la ditta, che è nella via dove c'è praticamente l'Elco, prima dell'Elco, e c'è Alice. Ho venduto roba surgelata, ma dirò che c'è roba buona, e non costa neanche molto. E poi se volevo dirti, poi non mi ha detto più, da no, si è fatto di palline, no, la giovincia se l'è venduta, no, io ho visto un tipo di palline, forse era quello che ho visto io. E detto cos'è la cosa, non c'era scritto anche, e non ho chiesto neanche anche come l'ha tenuta, ma è cosa strana, non l'ho presa. Dove in parcheggio sì. Non sono in parcheggio, mi sono già scoscendi. Però devi tenere di mangiare, ci ho portato 3 di mangiare gamberoni io. 3 di. E poi un resto, pure. Certo. Così a fambe di cosa poi te la devi mangiare tu. Infatti non ne posso più cucina. Io ho la mia compagna che deve ho sentito un pochettino, mamma mia che poca. Poi c'ho anche torta di fatti con le patate verde, con limone, olio, oliva, e, insomma, sì, in effetti così, un bel po' di magna, magna, poi alla fine si rimane domani da dritto, perché non si lampa nulla, è roba che poi non si guasta tra l'altro. No, non si guasta, solo che aveva passato un bel porcetto e niente, poi è venuto il giorno dopo, è venuto mio nipote e ha detto cosa facciamo? Diceva no, non ci mangiamo la roba che ti è rimasta, tanto un porcetto viene da me, l'ho messo in forno, l'ho scaldato e ce l'abbiamo mangiato. Salame non ne compareggio più perché hanno mangiato tutto, la salsiccia, il formaggio, il salame non ne hanno manco toccato, lo speck, il prosciutto crudo, tutto quanto ce l'hanno mangiato, ma lo salame non ha toccato nessuno, è rimasto tutto il salame, sono stato 3 giorni e mangiato il salame. Ma io guarda, ho preso questa bella peretta dal cognato, il cognato o l'ipotesi, quella è l'ipotesi, il marito della nipote di Abile di Migno, ha fatto questa peretta, il formaggio era bianco, ha detto diventa giallo, fallo, infatti l'ho messo all'aria, se diventa giallo, ma così buona, poi lo metto giù per salsiccia, ma infatti c'è ancora, perché non è che noi siamo chiusi di stuzzicare salsiccia e cose, no? Capito, ce n'è ancora, quindi automaticamente. Sì, ma quando stai affettando, secondo chi c'è, comincia a piccolità in occhi, chi dà che va a finire che adattava non lo vede più. Tony, io ho preso questo formaggio che è una bontà, è un formaggio che ha la parte di sopra tutta nera, ma tu devi assaggiare questo formaggio, un sapore così buono, ma buono, è fatto a Sassari. Ma se l'hai fatto a rotola nuda, la tua carne rocca, diventa un litro. Rimettono dei grassi, me l'aveva spiegato mio suocero, rimettono un grasso con della cera per tenerlo conservato. Pecorino, pecorino romano. No, io l'ho paretta perché mi piace un po', la verità è assaggiata, mezza paretta c'è già lo schignato, per dalle feste. Natalino, perché ti ci ascolto, ci stai scatofando? Sì, mani a paretti, mani, dopo ti lamenti. Ci copi, gente! Vai alla paretta, a posto di fermenta che sta a paretta, che fai? E ce n'è ancora metà, Manuè, è buono davvero. Tuo nipote sarebbe, merito di tuo nipote, così. Oh, marito di mia nipote. E ti viene il nipote anche lui, giustamente. Ma è buono a me, ce n'è ancora metà. Ce ne fa lui. Tu non hai più, anche tu sei sempre scatoffetti. Ah, ce l'ho una pesa ancora. Comunque arrivi forte, complimenti, bravo Manuele. E c'è bene? Fatti al controllo, qua c'è Natalino, Tore e già. Sì, vabbè, l'altro è una sorcelletta tu. Va di che ce l'hai nel quintiacchino. Manuele, forse che ti guai l'altro da giocare un letto. Sì, dai vi lascio che mi sto preparando che devo andare a lavorare, dai. Vi do gli auguri a tutti quanti, un buon anno e un buon tutto, dai. Riascoltiamo al nuovo anno. Lui anche a te buon lavoro. Mi dispiace che stasera non puoi festeggiare, ma... Anche se no te vuoi, Emanuele, porca miseria. E ieri notte lo stesso, ho smontato stamattina. Adesso riprendo alle 7 fino a domani alle 7. Mi dispiace, cara. Ci facciamo domani gli auguri. Quanto vuol dire che ha botto il pacco, ma non è, purtroppo, è capitato così. Ma dove sei, fuori? A Troco Reale, sono. Ah, sempre che da, già non è lontano, dai. Però se tirai gli scopi, tu sei chi mi trova niente, ma... Esatto, lui, ci mi interessa, guarda, non vedo l'ora che finiscano queste feste, perché... già che queste feste qua si buttano giù. Ok. Ma riprendete voi, quelletti per me. Ciao, ciao Manuè, fate cosa bene. Ciao Manuè, buon correttacco, ci sentiamo. Ciao Manuè, buon lavoro e auguroni, dai. Alle prossime, avanti Tore. Ciao Manuè, auguroni, felice anno e alla prossima ci risentiamo. Ok, ciao. Avanti Gianni! Ehi, dai! Ah. andava, io l'ho già salutato a Emanuele KK, e quindi Tonetti ha preso le perette del pastore, quelle a me mi piacciono, quelle del pastore mi piacciono, ma quelle che vendono al negozio le sono pure di lui. Non mi ricordo se ho pagato a 12, sì, però formaggio, parete, come che fa parte di Brugici che vende, che non sa, non sa da dove vengono. No, non ha un sapore proprio, quelle che fanno i pastori.